Avanti fischio, chi è? È fuggito. Hola. Uomani, attento Marco. Che ha fatto la cadirlo? Sì, tutto un vaso di chivi. Ma si è andato a ciocca, si era avuto un bel bocco. Mezz'ora di recita. Si è andato un bel. Ah, tutto in chivi vicino, mi ha rugrito. E si acciappa. Sto in chivi vicino. Ha fatto bene, certo. Stati su poro a casa. Noi abbiamo mangiato la sacchetta, mi ha largato a me un sacchetto di chi si è mattato. Mi ha largato ciocca e cucui. Mi ha largato la meglio, sta così, così che la vai già pronta a mangiare. Avevi abbigliato un altro poco. Ah, sembra di avere una zarucca un poco. Me la giocosta con un macacca, la giacca è buona e poi saurizza, non è come ti sa di vivaio, ho capito, che se ti saurizza. Ah, i suoi vivaio non va, nessun saurizza, non va, che sarà da se ne ha mangiato, non so cosa, se ne ha mangiato, non è allo stato bravo. E infatti, non ha un saurizza che fa in stato fatto, che cazzo, e la di qualche bocco, l'avevo buttito quasi una barretta piena, l'avevo buttito e l'avevo portato in frizza, capisci? Cazzo si sente, è già cotta. Ehi, te. Ehi, sono qua, Allora senti, sto. Sì, io rientendo sì, certo. Sempre in chi vi entra. Avanti, senti. Ho filmato, Giulia. Siccome te, basta dimmi dove la Sanoria me l'ha mandato due filmati, no? Giulia, si lo vede, si vede che era mezzo bacciuto, era cazzo e la scena, cazzo. Sì, solo vedo un buffa. Ah beh, certo che io non l'abbia fatto noi, questo ha fatto questo. Che se non mi abbia rifugi, no? Un attimo. Attenzione, signor Bacchisio. Dottore. Ehi, Gianmari. Eccoci qua. Beh, Bacchisio, se senti. Sento qualcosa di musica. Come? Ah, ecco, adesso non ce l'hai. Sentivo un rumore. Ah, perché ci sono dei bambini in TMR, no? Ci sono. E ogni tanto si fanno sentire, capito? Ah, io da me no, non li sento. Forse sono vicino a te, sono. Forse così, Perché è a fondo scala qua, dovrebbe essere molto vicino a me. Deve essere che sono vicino a te, sono. Magari disturbano. Però sono di quelli a giocattolo. Ogni tanto mettevano la chiamata, quella trrr, cominciava la gatta, e sentivano questi bambini parlare tra di loro. E poi ho sentito anche una persona grande, dice, adesso vanno bene, dice. E io poi Parigi ho preso a sei piedi i civicini, i giochetti per la cibo. Deve essere che ogni tanto fa interferenza, entrano dentro nel PMR, entrano. Lasciamolo fare a noi. Non si disturba, per cui possono fare dire quello che vogliono. Frega se ne frega. La porta è aperta. così che ognuno fa quello che crede. Sono quelli accoppiati, sono, ecco cosa è. Di quelli due o tre che vendono insieme. Oh. E molte volte entrano in coso, entrano. Che mere entrano e disturbano. Ecco. Le frequenze libere, cosa vuoi fare? Non ne puoi andare e dirgli cosa, no? No, per carità. Li hanno comprati per usare, solo che ogni tanto entro in interferenza a fare. Di portarsi che no. Che quando stiamo parlando magari non si sa molto. Vabbè, a me magari mi possono disturbare, magari a te non ci arrivano. Vabbè, infatti dovrebbe essere molto vicino a me, perché è a fondo scala qua. Boh. No, io manco, non li sento, deve essere che sono vicino, lì vicino sono e ti entrano da te, che cosa è. E anche subito, signor Bacchisio, buonasera. Buonasera, signor Bacchisio, ben risentito. Beh, come se la fa, come se la fa? Ah, io sono in soccorso, stai facendo. Vabbè. Ok. Sta parlando una PMR, Gio Maria. Quindi stai salendo a casa. Cos'è? No, a Bacchisio stavo rispondendo. Ali senti tu i PMR, ali senti, a fondo scala. E adesso ti ho sentiti. Bacchisio, ho detto se sta salendo a casa. Alla guiva va tra e se guiva via. A caso a to. Ti direva aggiunta Paoletta. Boh. Entra nei caffondi, vi da sì. E cara che c'è il buffetto. Ah, boh. Ah, c'è da Marco. Ehi, ehi, Pacchi, alla stessa dove sei? Non hai capito che... si sta divertendo. Ti sento sempre, io ti sento sempre. Allora, lo senti? A voglia. C'è una garage, già l'intendo. È vero, un po'. No, ya si fa sentire, va. Ya si fa sentire, Meno male che è accesa stasera, ragazzi. Bravo, ma chi, bravo. Dovevo fare tutte le sere così, almeno si tiene in allenamento. Sì, in allenamento. Allora, non è così, so. Però si addormenta e poi perde anche il vizio. Infatti. Bisogna fare così, bisogna fare ogni tanto. Cata, ti stai facendo lo smettere, so. Io? E cata, così fuochi è. E cata, è bloccato. Vuol dire che stasera, vuol dire che la cosa è pompa da rasura. Dai, vai, va bene così, va bene, va bene. Già ti ho fatto abbassare adesso, va. Signor Bacchia, arrivi di Semmo. Ascendendo sulla Woody Woody. Una presso all'altro. E allora sono i carabinieri. Ah, la stradale. E sarà successo qualche cosa allora. E boh, andiamo dove andiamo. È successo. Dice sono passati quattro battuglie di buffi. Vuol dire che cosa? Senz'altro c'è qualche cosa allora. E speriamo che non c'è niente di grave. E vabbè. Speriamo. Allora, signor Bacchi, dove sei arrivato? Ah. Ok, Bacchi, ci sentiamo dopo. Ah, siamo qua. Mette la dentro, già ti hanno lasciato il posto libero già, per metterci la macchina dentro, sì? Ma che ho detto da bimbare che vedo danchi a ridobbastà. No, già vero già da sendi libero, vero già da sendi. Ma ancora domenica? Meno male, il solito parcheggio non me ne frego, per carità, ragazzi. Tu già, vabbè. Tutti bravi non siamo, va. Sì. Andiamo e andiamo. Carità, aspetta che arrivi il messaggio. Ma un messaggio di Graziano. Non attaccati, di che sta fai in Santa Paoletta. Signor Bacchisio, Gian Marie. Ecco, sono qua. Ok, sono sceso a spostarmi la macchina. Io stavo leggendo un messaggio, mi hanno mandato. Ed eccomi qua. Andavi. Dovrò entrare in Bacchisio adesso. Dovrò entrare adesso, infatti. Già siamo qua. E chi si muove fino alle 8? Io ho mi davanti il televisore acceso e c'è Italia Giorgia. Aspetta che chiudo il telefono. Ecco qua, ma chi già ancora non è salito su? Lui che sei già arrivato a casa. Penso che sia, va, cazzo. Sai, vicino da lì a casa sua, non è resta un caso. Per cui sa fare fretta e vabbè, magari ci deve cambiare un cos'è l'altro. 10 minuti ci passa buono. Sì, quello sì. A far così, arrivi a casa, poi già lavarsi, giambassi e stare pronti. Cosa abbiamo combinato stasera? Nulla che nulla, un riposino e alla buia, voglia esci invece non siamo usciti. Tu mi ha mandato un messaggio che ha trovato le molestie a batteria, Luca. Domani li ordiniamo, dai, due, uno a me e uno a lui, e li ordiniamo. È meglio così. Meglio così, almeno si lavora. Ci dovrebbe essere qualcuno. Aspetta, c'è che vuole entrare? È più forte. Ecco, è la ura. Ah, no, lo sapevo. Quello mi dice un po'. Ti ho sentito un rumore. Ma che rumoroso? No, è già passato a Gio Maria, è già passato. Noi Gio Maria non vede in cammino, non è già passato. Non l'ho trovato. Otto, ma lo sa perché mi fa? Perché se la abusa, perché io sono piccolo e nero, capito? Invece lui è grande e lungo. Infatti, sei passato sopra, ti è passato, ma gira, non ti ha fatto quasi nulla. Se ne può permettere, capito? Perché sono piccolino, vabbè. Vuol dire gli ammettiro per essere più lungo. Magno se deve mettere Gian Maria. E allora dice, raccontaci cosa ci hai combinato oggi. Oggi poca roba, stamattina un quarto d'ora di focherello, poi innaffiato e stasera ho fatto un pippero. Hai fatto bene, oggi hai fatto la serata brava proprio. Allora ti sei riposato, sei tranquillo, è meglio così, dai. Fai bene, ma chi? Fai bene, bisogna farlo fare agli altri, se è possibile non dobbiamo fare niente. Ma la sorte degli altri non voglio fare niente. Niente fanno gli altri. È quella faccenda. Per carità. Non a tutti chi piace la campagna, per cui bisogna anche accontentarci di fare tutto noi, dai. A mangiare bene a tutti piace, ma da fare? Oh! Chi se ne frega attore, non c'ha pensiero dietro in campagna. Devi innaffiare, devi zappare, devi tagliare l'erba e devi fottare. Fa bene tu, fai bene tutto. Vabbè, parlava a pensieri non mangio, sono tranquillo. Non ti fa piacere che uno sia tranquillo, no, ma chi? Infatti, tranquillo, c'è la puttassa di un dentomaro. Aspetta. sai bene, tu, e magari se ci fosse stato tu in mezzo avresti fatto come facciamo noi, tu, e, però non tutti lo possono fare, per cui meglio così per ognuno, dai, riprende tanto. Sì, andava. Va benissimo così. E allora, signor Bacchisio? Ehi, così va bene? Tutto bene, sì. Tutto bene. E Cermalino, sentito l'avete? Dove va? Io non l'ho sentito, non, se non è entrato per niente. No, nemmeno io, per niente, oggi, nulla. Si è pazzesco qua. Per cui no. Evidentemente è indaffarato Bacchisio. Che lui si sta andando a fare, per cui quando non ce la fare meglio che lasci a parte l'apparecchio e fa quello che deve fare. È giusto che sia così, già si farà sentire prima o poi. Sì. Sperando che però lo raggiungo. Ok. Tony, com'è che sto uscendo adesso? Ho cambiato radio. Ah, sta uscendo bene. Abbastanza bene. Radio 9 è qualcosa. Radio 5, perfetta. Ah, perfetto, non è questore, no? No, si capisce bene. No, pensavo che era il questore, Gianmarì, dice il prefetto dice che era. Guarda che sei tre Santiago di meno di Bacchi, di Sore, però come segnale e come radio va bene Bacchi, va benissimo. Sono di meno di Tore come segnale, è perché Tore si è messo nella zona più alta, io sono in basso. Tore mi incolla lo smitter qua ogni tanto. Praticamente oggi mi sta incollando tutto, devo attenuare. Addirittura, Tore, io vai a vedere quanto arriva. Gian Maria qua arriva a 9.30, 9.40. Su, ma arrivi appena più sotto, mi appena però me. Tu sei 9.40. 9.40, Gian Maria fa 9.30, 9.40, invece tu sei 9.40 fisso. Tore ce l'hai più vicino anche, sono molto più vicino di me, per cui è chiaro che dovrebbe arrivare più forte, però l'importante è che uno lo sente, dopo per il resto ce ne freghiamo, l'importante è sentirci. Infatti, quello è più importante. No, sto pensando a quello che ha sovramulato Gian Maria quando stavo salendo, che mi ha salutato. Ho la minima idea, adesso pensandoci bene, sono quella persona che posso operare Gian Maria. Ho individuato chi è. Comunque Bacchi, tu mi arrivi con lo smith incollato, Invece ti incollo, scollalo tu. E adesso ho messo l'attenuatore. Avano mi butti. Hai messo l'attenuatore? E io ho sollevato il tastino e torna indietro appena la freccetta. Ma quale stai usando? Il grande? No, sempre quello là, E quello là, quello grigio? Oh, che Duniedo! Ah, Duniedo c'è da tempo. Ho capito. Ogni po' bisogna farli scaldare queste radio, sennò drommine, diventano mandroni. Io devo piacciono farli che a trattarlo. Questo è veramente vero, veramente è verità. Vediamo un po' se mi ascolta il signor Marino, senz'altro è all'ascolto. Marino, Marino è Mondendi. Sicuramente è andato in America, è andato. No, sta scoppando fuori del piazzale. Ah, chi? Vento per passato in Chivi, cosa per passato vento? A Cavagnotta Ravuglia. bisogna voglia di Viga, voglia di Marasucchi. Senz'altro. Vabbè, ce la riprenda signor Gio Maria. Adesso cominciava a accendere le foglie, per cui, ma non ne ha alberi grandi, non ne ha, così che Marino, per cui non è che sia stare gli lo sporchi. No, credo, vero Bacchi? Qualche altro di picco c'è, qualche altro di malasotte, il frangivento, il frangivento, il vento delle foglie le butta. sta giù, voglio portare le piazzale e devi fare pulizia. Ma mi sembra facilmente che questi giorni doveva tagliarlo, doveva fare la barba. E da me, tutte le volte che scendo, e sto cazzapuglia per terra, cazzo. Mamma sta a musacca, sta a pigliare la carriola, a carriera, a portarsi, perché la butto in mezzo alla campagna, le foglie, non è che le butto in mondezza, no. Butto sotto gli alberi del tronco, così, in terra, e già si marciscono, ma chi? Ma tutte le volte che scendo, è pieno, tutto il viale, cazzo, è un macello. Poi il picco sta cambiando foglia, sta buttando giù le foglie in terra. L'uva viene con le patate. Il vento me fa mulinella, me la porta sotto la tettoia dove ho gli attrezzi. È un casotto, non mi posso la vita. Infatti, anche l'erba è fattiva, quando la taglio, non è che la resino, no? No, taglio, lascio lì, certo. Per cui in quello faccio il tutto al rotto, per cui alle piante le fa sempre bene. Così che non ne ritirano, come molti altri la ritirano, perché non toccarla, meglio lasciarla sotto che qua lì fa sempre bene. Avanti, signor Toro. Così è. Io sto guardando il telegiornale, si è accorazzato a Roma, ha fatto affondare i tedeschi, gli assiati tedeschi, 1400 bassoni. Un attimo, so che mi stanno chiamando, aspettate, chiudo direttamente, sai che sta venendo gente. Dai, ci aspettiamo domani, vi ringrazio la chiacchierata anche se breve, però fa sempre piacere, dai. Ciao Bacchigio, buon primetto, saluto in casa, domani se coincide. Ciao anche a Tove. Ci sentiamo, Tove, riprendi tu e chiudo, vai. Scusate, ma c'è gente. E io sì, dai, facciamo così, ci sentiamo domani, Gian Maria. Va benissimo, riprendi Bacchigio. Sì, ciao Gian Maria, buona serata, grazie della piccola chiacchierata, saluta in casa. A domani se coincide, alle 7 tanto io sono in viaggio. Bene, riprendi Tore, vediamo un po' se qualcuno si vuole affacciare. Sì, chi si affaccia alla finestra? Non vede nessuno? Andate. Marco, ci ha mangiato lo zurico, Fidato ci ha mangiato lo topolino e non si intende di nessuno. Noi dovremmo entrare, dovremmo, se no fide che vuoi entrare, entra, se no se rimani lì. Anda benissimo, vero signor Bacchini? Ah vabbè, no, la porta è aperta, io non l'ho chiusa, è aperta la porta. Se vuoi entrare, entra, se vuoi uscire, esci, forse sei ribiato. C'hanno in PMR tutti. Fammi così. Io sono cominciando a contarmi un carrello. Un pezzo mi ha giocato gli su Manzano, me l'ho liberato, ho smontato il freno a mano, l'ho messo bene, è ingrassato. Ah, stai lavorando sul carrello, ancora. E a collaudo non sei andato, no? Il 24 ottobre ce l'ho. Sì, è mai moglie. 24 ottobre. E fino al 24 ottobre non lo puoi usare. Oh, già lo posso usare, ma non lo uso perché me lo metto a posto bene, me lo metto. Che funzioni tutto. Capito. E più tranquillo, dai. E farlo piano piano, un pezzo oggi, un pezzo domani, già si finisce, poi una passata di vernice e ne viene nuovo. Infatti dove ci sono pezzi arrugginiti gli passo la vernice, gli passo. Tanto ma fallo vedere che è un po' garido nuovo. Basta farlo tutto, tutto un colore, via. No, già c'ho la vernice giusta, adatta a quel colore lì. Ah, e allora sì. Ma se gli dai una mano a tutto non gli fa male, un panza non è buono. E a farlo tutto io ho troppa vernice vivo a farlo tutto. pure i bomboletti mi arrangio, intanto posso ribessi dove sono arrugginiti. Ah, non volete lo fare, a pennello, con un rullo piccolino, una strisciata, ma che ho fatto? C'era l'altro giorno la Venice, la Lidl, un euro e qualcosa costava. E ma non quella zingatta, ne ho guardato, non ce n'era zingatta. Ah, non ce n'era zingatta, dopo i zingatta. Vedi che se lo fai senza essere zingata cosa succede? No, vuole zingata, vuole precisa, vuole. Infatti una bomboletta ce l'ho già a metà. Ho fatto dei pezzi. Ho fatto dove c'era la targa, che ho smontato tutto quanto, il fanalino e tutto, e l'ho verniciato. Adesso ho il coso, ho il pezzi dove sono da fare, dove c'ho il numero del telaio anche da fare bene. Capito, una sussatina e via. E vabbè, lo fanno tutto a bombolette questo troppo, io ho ragione, no, non mi vale la candela a fare la bombolette. Troppo costa lo spray e poi ce n'è poco. 6,50 euro a bomboletta, ma per i pezzi che devo fare io a Puglia, già mi basta. Ma ci comprare una sua bomboletta e buh. Ecco. I pezzi più importanti li vendi, no? I pezzi più importanti mi faccio, tanto c'ho da pulire soltanto così dove ci sono le rotelle, poi gli ammortizzatori devo smontare, quelli verniciali devo verniciare in grigio, e già ce l'ho quello, in nero e in grigio. Sempre a spray o a pennello? No, già li metto a posto piano piano, giù di giambare, i freni, buru, la stecca del freno sto cambiando, e poi c'ho da cambiare i mozzi, sto mettendo a posto, io già ce li ho nuovi quelli, a voglia, un buon cappuccio che sia frenante e tutto. Ne hai da fare, aspetta, ne hai da fare. No, i cosi devo togliere quelli che ci sono, i mutti, e mettere quelli che ho in magazzino, che sono nuovi nuovi. Quelli li uso solo per quando faccio il collaudo e basta, la revisione, da. E poi ci rimetti i vecchi. E poi ci rimetto attorno a quelli che c'erano. E beh, cosa succede se ci lasci nuovi? Che lo gozo non mari se li mangia, è compreso, se li mangia in fretta, se li mangia. Ah, la salsedine, sì, e anche l'acqua del mare, come caricando e via. Sempre qualche po' d'acqua si va a finire sopra e ha ragione, la salsedine si mangia tutto. Quindi ci rimetto quelli che c'erano prima e andano in rovero Matteo. Capito. È vero, non sia che per... Fatti conto, l'altro giorno sulla Woody c'era un carrello con una barca sopra e ne è uscita la ruota, non l'aveva messo la ruota, non l'aveva messo. I guscinetti, se li sei fasciati i guscinetti, hanno come sentito il rumore, li devi giambare subito, no, la città che si fascia, e così ti succede sempre. È vero, la ruota attaccata con un morto, non per altro. Lo zelaio toccava in terra. A chi hanno intendi il rumore, gli si intendi un rumore, che hanno intendi un rumore, devi giamba subito, devi giamba. C'è un abbezzo mio che dice, era Giorgio, non ha ciambato, dice che non si faccia il giambo. E hanno detto si faccia in carriera, tocca giamballo in carriera. Infatti la ciambato in carriera, perché pronta la dire la macchina. La macchina, lo carrello con un gommone in mezzo ai bidi. La sera giù che li erano contenti, che erano in due, perché ne punisce la ruota. E i guscinetti li devi giambare, comprare i guscinetti e giambare via. Ecco cosa è. Ma sì, ma a fare se lo trovate, bisogna far essere in casa, se abbia un banco, una morsa, che mi raggiunti. In carriera, a momenti vai. Ah, guarda, vabbè, io me lo sono fatto qua nel banco. Viene un po' difficile, infatti quello te lo devi, se lo sai fare Se lo devi portare sopra un banco e farlo e poi mettercelo dentro. Ecco cos'è, è una cosa un po' complessa. Caffè buono usa fa, che non usa fa, è un po' carino difficile, c'è fa un meccanico. Ma lo fate io, quando coscienza si rompe, a cavallino l'ubrizzo, è sempre più fastidioso che vanno coscienza in tre io. Coscienza intera, l'omonia dell'aria mi augava, ma quando è l'ubrizzo è più fastidioso. Ma infatti io quando sento il rumore, che sta facendo il rumore e cose del cuscinetto, che poi si vede mi, che comincia a giugare la ruda, comincia a giugare, e devi giambà. Vai, li compri nuovi, a ventina di euro, e c'ha i cuscinetti. Beh, certe volte si fa per risparmiare, oppure la mandronia devi farlo, e poi alla fine devi fare per forza perché si sfasciano. Vanno a finire male. Se no mi prendi, ci metti sopra una settantina di euro e ti compare i giochi di che sono serrati dei cuscinetti, che non entra Eva né nuda, ti durano una vita, ti durano e quelli lì, li pieni di grasso dentro, ci metti il grasso liquido dentro e gli metti quelli lì e ti durano una vita. Ma costa più degli altri, però lo permetti. Mi durano una vita, però costano di più. Il lavoro è sempre lo stesso, risparmi il lavoro ma ci metti in soldi. 35 euro l'uno costano, anzi no, il grande costa 40 euro e 35 viene quello più piccolo. Quindi se compri quelli lì è risolto il problema, perché non fanno neanche rumore, non fanno. Sono più silenziosi quelli. Quelli sono silenziosi. No, io ho cambiato il cuscinetto alla moletta l'altro giorno. Si è imballato. Vabbè, Marchi, a me Mecciamendi, è sempre a bordo, ci sentiamo alla prossima, domani, ok? Ciao Battisio. Sì, ciao Tore, anche per me è arrivata l'ora, è giusta giusta. Ciao Tore, ciao per la signora, buona cena, buon tutto, a domani ci coincide. Ciao ciao. Ok, ciao Battisio, sentiamo.